Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Riprendiamo dopo la pausa estiva con due puntate, quella di stasera e quella di domani, in cui parleremo di acqua. Quando è troppa, quando è troppo poca, come per esempio negli ultimi mesi, durante i quali si è registrata una delle peggiori siccità del secolo, con il risultato di enormi danni all'agricoltura. Ma attenzione, perché i due troppi, insomma questi due estremi, non si escludono a vicenda. È ormai assodato infatti che una delle conseguenze del cambiamento climatico in atto è la concentrazione delle precipitazioni in poche e intensi momenti. Quando le precipitazioni sono così concentrate, il terreno si inzuppa, diventa impermeabile, e l'acqua in questo modo, anziché essere assorbita dal suolo e percolare in profondità andando ad alimentare le falde acquifere, scorre in superficie, dilavando ed erodendo la superficie per poi scaricarsi di botto nei fiumi. Ed ecco che il danno è doppio: da un lato c'è sempre meno acqua sottoterra, acqua indispensabile all'agricoltura nei periodi di siccità, e dall'altro assistiamo a smottamenti, alluvioni, e chi più ne ha più ne metta. Dottor Nieto, ho sbagliato qualcosa? Penso proprio di no. Daniel Nieto, ricercatore dell'OGS, l'Istituto Italiano di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. La sua specialità è cercare rimedi al primo, in particolare, dei danni collaterali a cui abbiamo accennato: lo svuotamento delle falde acquifere, in particolare dei cosiddetti acquiferi profondi. Allora Nieto, come possiamo immaginare intanto questi acquiferi profondi? Come funzionano? Che cosa sono? Dunque, gli acquiferi sono dei serbatoi d'acqua che si trovano in profondità, che sono costituiti da infiltrazione nell'entroterra dell'acqua piovana, prevalentemente piovana, e quindi è questa la nostra riserva delle acque profonde. Più o meno quello che succede sul fiume: nel fiume superficiale le acque piovane nevicate alimentano i fiumi, ma alimentano anche questi fiumi sotterranei, chiamiamoli così, ma in realtà sono come delle spugne, no? Esatto, cioè in realtà l'acquifero viene costituito un tipo di roccia che ha determinate caratteristiche di porosità, nella quale viene inclusa l'acqua. E scorre però molto molto lentamente. Sì, esatto, la differenza appunto fra un fiume e l'acqua sotterranea è proprio quella, la velocità di scorrimento dell'acqua. Per fare un esempio, misure fatte nel fiume Tagliamento, fiume Venezia Giulia, indicativamente la velocità di scorrimento di una goccia d'acqua in superficie è sui 85 km al giorno, sì, mentre profondità indicativamente mezzo centimetro al giorno. E questo vuole anche dire che quando si svuotano rapidamente non è che poi si ricarichino rapidamente. Lei tra l'altro ci insegna che il problema non è solo che si abbassa il livello di questi acquiferi, ma anche che una volta che si è svuotato l'acquifero, di solito viene riempito con qualcos'altro. Uno dei problemi vincolati alla disponibilità d'acqua per usi umani è anche quello che è legato a ciò che viene definito spostamento del cuneo salino. Quindi, in condizione normale, il cuneo salino è quella zona di incontro fra l'acqua superficiale, l'acqua freatica, l'acqua dolce, comunque l'acqua marina. Viene chiamato cuneo più che altro perché c'è l'acqua salata, che è più pesante, quindi nella zona di incontro si infiltra, va di sotto dell'acqua dolce, e quindi si trova in quella, una esposizione proprio del cuneo. In questa situazione di equilibrio vengono influite molto nel periodo di siccità, in quanto la mancanza di acqua dolce lascia spazio per l'acqua salata. Ecco, tra l'altro ci interessa molto, noi qui ci occupiamo di città, ma dobbiamo ricordare che gran parte dell'umanità vive sulle coste o molto in vicinanza del mare, e quindi le risorse di acqua è importante che nelle zone costiere siano disponibili, altrimenti altro che città intelligenti. Tra l'altro, una volta che questo cuneo si infila e penetra nell'entroterra, non è che poi lo si possa rimuovere tanto facilmente. Gli effetti collaterali possono essere devastanti, vero Nieto? Sì, effettivamente gli effetti sono molto molto difficili da risolvere, anzi penso che si crea il problema della desertificazione del suolo, e quindi a quel punto abbiamo eliminato la vita nel terreno, e quindi è più impossibile riuscire a utilizzarlo da un punto di vista anche agricolo o da altri punti di vista. Senta, mi dica una cosa, visto che stiamo andando un po' per le lunghe, direi che possiamo poi affrontare la soluzione nella puntata di domani, perché è interessante anche capire se questo sta già accadendo in Italia e quali sono le zone più colpite. Si sicuramente è quello della Delta Epo e molte altre zone della costa toscana. Questo è un problema abbastanza evidente, molto noto da molto tempo e purtroppo relazionato anche abbinato a altri problemi come la subsidenza, problemi di questo genere qua. Sicuramente la zona di maggiore difficoltà o infiltrazione del Cuneo Salino è la Delta del Po. In particolare nella zona di Ferrara, se non sbaglio, no? Diciamo da Ferrara, dove sono state fatte delle misure dagli ultimi 25 anni, dal 75 in poi c'è stata un'infiltrazione del Cuneo Salino verso terra indicativamente ai 25 chilometri, quindi una zona dove il problema viene abbastanza grave al momento. Un'altra zona in cui ci possiamo attendere purtroppo effetti negativi è la Puglia, dove in particolare la coltivazione dei famosi pomodori Pachino ha ridotto di molto il livello delle falde freatiche. Sì, infatti in questa zona c'è stato un sovrasfruttamento della falda, però una volta che abbiamo sottratto tutta l'acqua dolce, purtroppo cominciamo anche a immungere l'acqua salata. Nel momento in cui l'acqua salata viene sul terreno, non è più possibile utilizzarlo per l'agricoltura. Insomma, ricordiamo che una volta i romani salavano il terreno per renderlo inutilizzabile e noi lo stiamo facendo qualcosa di questo tipo. Senta, le faccio una domanda, mi deve rispondere molto rapidamente, poi ci risentiamo, io direi a questo punto, domani. Ma l'acqua per ricaricare gli acquiferi, poi domani vedremo come fare, c'è o non c'è? E l'acqua è disponibile nel momento in cui c'è una grosso periodo di piovosità, oppure si possono utilizzare anche l'acqua dei depuratori. Va bene, allora domani vedremo come fare. Grazie Nieto e buona serata. Grazie anche a voi, grazie per la possibilità di affrontare questo problema. Appuntamento domani allora.